Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Non guardarlo che segna di meno. Vanna più forte, eh? Spingo. Bella pupa, eh? Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco al... Vai, cavolina! Vai! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non correre. Certo che se oggi devo commentare la notizia che il mercato dell'auto in Italia ha un segnale di crescita, di ripresa, più 9,2%, commentarlo con Il Sorpasso, che naturalmente è il film che rende fantastica l'auto italiana, ma allo stesso tempo fa serrare in maniera imperterrita e vulcanica le mani negli attributi a tutti gli automobilisti, perché è un film che finisce tragicamente. Però volevo oggi, approfittando appunto di questa notizia, che finalmente dopo tanti mesi di stallo, con piccolissime variazioni dello 0,0,0,0, si invece da questa ricrescita del mercato dell'auto. Piangeranno coloro che addebitano l'auto il calo repentino della qualità di vita nelle città, ma saranno contenti tutti quelli che comunque hanno d'occhio la crescita dell'economia nel nostro paese. Però vorrei approfittarne proprio per considerare ancora una volta quello che è il rapporto viscerale, imprescindibile, o perlomeno miticamente raccontato dalla commedia italiana, tra l'italiano medio e l'auto. E Il Sorpasso ne è naturalmente, da questo punto di vista, una pietra miliare. E lo faccio oggi con l'ottimo Giuseppe Sanzon, come sempre ci affianca in questa lettura fra reale e iperreale, passando attraverso le mitologie certificate alla nostra commedia. Il Sorpasso, ho ragione, è un film a finale tragico, perché finisce con in cui il buono muore e il cattivo rimane vivo, quindi a noi piace, ma finisce male. Però è un segnale molto vivace del fatto che l'automobile diventa protagonista comunque di un film. È il road movie degli anni del boom, cioè Gassman, Bruno Cortona, che è una sorta di maneggione roboante, appunto il miles glorioso solito di Gassman, lanciato con l'Aurelia, sull'Aurelia, che invece diventa il percorso che porta da Roma ai luoghi di vacanza della Toscana, ai luoghi del divertimento, il weekend che nasce negli anni 60. Quindi... Già allora la Toscana aveva un sapore mitico, vedi? Sì, un sapore di classe. Una Castiglioncella. A Castiglioncello, poi gli sarà fatale per l'appunto l'Aurelia nel finale. È un viaggio di formazione che si conclude tragicamente e la macchina diventa il feticcio, il posto da abitare. Per la prima volta viene vissuto l'abitacolo come luogo in cui si crea un'interazione fra due generazioni diverse, il mite trentignano che rimarrà sconfitto dalla fatalità. Un buono studente strappato ai suoi libri, una giornata di Ferragosto in cui Roma era deserta. Bianca, di questo bianco onirico. Allucinato. E lui lo strappa agli studi per portarlo a vivere e invece lo porterà a morire. Ecco, per gli appassionati di auto non posso far meno di sottolineare il clacson, la tromba bitonale del clacson dell'Aurelia. Andava molto in quegli anni lì, era il tipico clacson da spaccone, il clacson bitonale, perché allora non c'erano problemi di osservanza di alcune regole di inquinamento acustico. Si suonava il clacson, era la spocchia unita alla macchina fuori serie, alla macchina decappottabile, alla macchina sportiva, la macchina da arrapato provolone conquistatore di donne, con cui poi Gassman al massimo si fa una cameriera che rifaceva letti, una cosa tristissima, capito? Però il clacson annunciava l'arrivo della macchina. È la protesi sonora dell'ego di Gassman, che appunto questo fisico da centurione si lancia e descrive per l'appunto l'italiano che usa come feticcio e come arma fallica la macchina. Ti invito un attimo, una piccola digressione, una parentesi, ma è necessaria. Ho rivisto su YouTube l'altra sera la famosa disputa fra Carmelo Bene e Gassman. Carmelo Bene accusava Gassman proprio di questo, di essere questo trombone con la corona di latta in testa, e lui si arrabbiò tantissimo. Sì, dice tu sei il meglio del peggio, quindi sei il pessimo. Però in realtà erano molto amici, perché erano nati lo stesso giorno a 15 anni di distanza, quindi era tutta una messa in scena quel loro scontro per poi tornare sui giornali e poi riempire i teatri. Era una geniale tecnica straordinaria fra due che in fondo si non stimava. Sembrava molto, che era molto avvelenato. In parte c'era una sorta di veleno, però in fondo c'era sintonia. Torniamo all'automobile. Qual è la sua? È questa. Ma questa è qui, questa baracca. Ma... Guardi, era meglio il carro funebre. Andiamo, va. Scendi, merdone. Avanti, Fantozzi, scenda. Gli faccia vedere chi è. è lo stronzo? Io. Allora, Giuseppe Sansonna, questa è l'antitesi, l'altro polo, è l'opposizione, l'immagine speculare dell'Aurelia di Gassman e la Bianchina di Fantozzi. Sì, anche questa è una protesi, però una protesi minimale da perdente, appunto, una scatoletta che appunto la signorina Silvani sale con ribrezzo, dice era meglio il carro funebre perché sono a un funerale, poi strappa un invito a cena all'agognata signorina Silvani, ma taglia la strada al terrificante Nello Pazzafini, glorioso caratterista di Ostia, che finirà col massacrarlo. La scena è bellissima, che smonta a pezzi la protesi di Fantozzi staccando lo sportello mentre lui continua nel vuoto a cercare di sollevare il finestrino. E la stessa Bianchina viene colpita da una lavatrice la notte di Capodanno. Esatto, tirate per festeggiare, e invece viene sfondata la macchina. Tutti uguali voi italiani, piccolo borghese, mi piace, basta che vi tocchi una macchina, dice la signora Silvani. Ti do adesso l'occasione di un contributo di approfondimento, perché abbiamo trovato chi affitta al cinema automobili di questo tipo. Roberto Bellani, buongiorno. Buongiorno. Roberto Bellani, titolare dell'autonoleggio Bellani, che propone auto d'epoca e di lusso per cerimonie, ma affittano anche la Bianchina e il Dan Buggy. Sono due auto usate nel cinema. Sì, come nel cinema, appunto, la gente vede queste macchine, quindi sognano anche loro di affittarle, di essere... di partecipare con il loro matrimonio, con qualche foto a queste ecco, la Bianchina di Fantozzi, lei ce la presenta, la Bianchina che usa Fantozzi, dello stesso tipo che voi affittate, e qual è la storia di questa macchinetta? Perché viene considerata come la macchina dello sfigato per eccellenza, poi non è così. No, non è così, perché la berlina di Fantozzi era nata come un lusso della Fiat 500, quindi con uscita con queste cromature, con queste pinne dietro, che se vogliamo farla somigliare al Eldorado del 59. Comunque, è come la Smart oggi, diciamo, la macchina della signora fighetta come la Smart oggi. Esatto, sì, viene ridicolizzata un po' nel film di Fantozzi, ma in effetti non è così, perché è una lussuosa macchina che è stata fatta al posto della 500, dall'Auto Bianchi. Quindi l'Auto Bianchi ha fatto questa bellissima macchina, l'ha fatta poi berlina nel film di Fantozzi, di questo omonimo film di Ugo, diciamo, Ugo Fantozzi, oppure come è stata utilizzata anche nella Pantera Rosa, la macchina Cabrio. Ah, c'era anche Cabrio, sì, la Bianchina Cabrio. La Bianchina Cabrio, sì, poi hanno fatto anche panoramica, è stata usata comunque in diversi film, ecco. Quale altra macchina affitta lei? Macchina usata, diciamo, in film, che è diventata celebre perché usata in certi film? E possono essere comunque, come vedete adesso, nelle varie fiction televisive che fanno vedere le diverse macchine italiane. Ecco, fortunatamente c'è questo bel mercato dove si rifendono tutte le nostre macchine italiane, soprattutto, ecco, che vanno un po' a fare tra virgolette concorrenza alle solite macchine americane che vediamo in TV, ecco. E quindi è molto bello rivedere le macchine, vedi la Bianchina, vedi la Topolino, vedi dici papà guarda quella lì, tu ce l'avevi, io quella lì mi sono sposato con quella, e quindi poi nasce tutto questo fatto di noleggiare le macchine per i matrimoni, ecco, perché appunto tutti vogliono rivivere e dicono mio padre si è sposato con quella, mio nonno ce l'aveva, e dicendo, ecco. E quindi poi questa passione si è tramutata anche nel Dune Buggy, e vedendo il film appunto di Bud Spencer e Terence Hill, Altrimenti ci arrabbiamo, mi è nata anche a me questa idea. Gliela faccio sentire un attimo. Rivogliamo la nostra carriola. Carriola? Ma che carriola? La macchina che ci avete distrutto. Noi la chiamavamo così. Ci eravamo molto affezionati. Ma voi lo sapete con chi state parlando? Sì, come no? Ecco, Roberto Bellani, come nasce questo tipo di automobile? Cos'era, un maggiolino trasformato? Era la macchina per andare sulle dune, sulla spiaggia? Andava molto di moda. Sì, è nato in America da Bruce Meyers, è stata un'idea sua, nata nel 55, questa idea di fare questa macchina tipo spiaggina, e veniva prodotta in un kit di montaggio. Infatti il primo buggy è stato il appunto di Bruce Meyer, e questa macchina veniva prodotta in questo kit di montaggio che poi veniva spedita intorno agli anni 60 anche oltre continente, ecco. Quindi fino a quando è arrivato al, diciamo, al 65, che ha finito la sua produzione, e poi in Italia è stata copiata, cioè è stata copiata, brutto dirlo, è stato un po', ha dato spunto un'idea all'autozodiaco di Bologna, di Azodiaco esattamente, di cominciare questa produzione, di fare anche lui, prendere il maggiolino, togliergli la scocca con tutti i suoi bulloni sotto e poi accorciarla di circa 27 centimetri, mettere le ruote più larghe sopra, e costruirci l'airbag. Esatto, gli optional erano le gomme, il roll bar, diciamo che per qualche anno è stata una macchina da piccolo spacconcello di spiaggia per andare in giro e caricare le ragazze, era molto divertente. Sanson. Però ce l'aveva anche Siani, il giornalista ucciso dalla camorra, si vede in vero, è la stessa macchina, mi conferma? Questo purtroppo non lo so dire. In Fortapasci, c'era questa, no, era la sua caratteristica particolare, no? Era, aveva, girava con questa macchina per Napoli a fare le sue inchieste, quindi era una cosa che lo caratterizzava. Sì, era un simbolo di essere estroversi allo stesso tempo contro ogni tipo di incasellamento. Però era una macchina sportiva, allegra, divertente, si distingueva da altri tipi di automobili. Ci fermiamo un istante per il traffico. Grazie Bellani. Melog, cronache meridiane. Ah sì, ma te ne accorgi di qualcosa? No, di che cosa? Te ne accorgi che sta macchina c'ha la testa abbassata? No. Oh, ma cos'è stato? Niente, che deve essere stato? Niente! Abbi fede! E adesso? Abbi fede, regolare! Ah, regà! Chi ci ha dato una spinta? Sbrigate che mo diventa verde! Dai, se, metteteci pure di forza! Diamogli una maschio! Spinta. Maschio! Stiamo cercando di sottolineare il fatto che accanto a ogni caratterista, accanto a ogni figura epica della nostra commedia, spesso c'è un'automobile caratterizzata e caratterizzante di una certa tipologia di umanità. In questo caso, Verdone, in Un sacco bello, sottolinea un vezzo tipico del quattume che è sempre all'inseguimento disperato di un vorrei ma non posso. Non puoi avere una macchina sportiva, prendi una macchina così così e abbassi la testata, che era il tipo di elaborazione più banale fatto da meccanici di provincia, di periferia. Abbassi la testata, aumenti la compressione, con questo dovresti aumentare le prestazioni del motore, ma in realtà così non è, fa solo più rumore, più casino, infatti si ferma. Giuseppe Sanson. Il film è Un sacco bello, sono passati quasi 20 anni dal sorpasso, stanno iniziando negli anni 80, quindi il road movie si allarga all'Europa, c'è l'est da raggiungere con la decapotabile, che è questa Fiat Dino con la testata abbassata, che anche questa diventa una protesi di assalto all'est con le calze da vendere. Ancora doveva cadere il muro, quindi l'est era considerato come terra di conquista, di femmine spasmodicamente disposte a concedersi per dei collan, delle penne biro, dei profumini, dei rossetti, e cioè questa transumanza di stalloni italiani che andavano alla ricerca del suo disperato sogno delle ragazze dell'est. E infatti la coppia è molto simile, cioè Verdone con questo questa banana alla Elvis e con l'ovatta in zona pelvica, l'evidenziatore, appunto, il tipico evidenziatore. Si usa Posca, sempre nelle balere, è impossibile non, perché quegli anni andavano dei pantaloni molto attillati, veramente attillatissimi, proprio da stritolamento gonadico, e se nell'attillatura non corrispondeva a un gonfiore evidentemente mancava qualcosa, allora smetteva dell'ovatta, ognuno aveva il suo evidenziatore, si sopperiva, In piscina smetteva la cuffia, c'era sempre qualcosa per aumentare il volume. L'amico di Verdone invece è renitente a questo assalto, a questa fuga dell'est, e quindi un po' replica il trentignan renitente a farsi trascinare nel road movie. La differenza con il sorpasso è che c'è molta più una latente malinconia già dall'inizio rispetto ai boom degli anni 60. Beh, erano gli anni, diciamo, dell'edonismo, che in realtà racchiudeva da una parte gli anni di piombo alle spalle, avanti l'incertezza che si avvicinava alla fine del millennio, la fine del secolo, si sapeva che poi sarebbe arrivata una stretta. Quanto fa questa? 250. E dove li fa? E dove vuole che li faccia? Su strada, no? Ma se non ci stanno le strade? Perché? L'autostrada del sole cos'è? Un viottolo? Ma che autostrada? Qua a momenti non abbiamo nemmeno il sole. E poi in città il motore si sfotte. E chi lo dice? Guardi, il carburatore è a doppio corpo. Il che significa che può marciare anche a regime minimo. La Maserati è una macchina da corsa, ma in città è un calesse. siamo ancora a un altro mito, sì. La Maserati, la macchina italiana, il simbolo dell'acquisito potere d'acquisto. Siamo appunto sempre negli anni 60, negli anni del boom, il film è La cuccagna di Luciano Salce, che contrappone l'esistenzialista in nero, qui Luigi Tenco, qui prestato, grande amico di Salce, che fa l'attore in questa occasione, e che con la sua malinconia si contrappone invece all'edonismo anni 60 di Tognazzi, che vuole il macchinone, che è la Maserati, ne ostenta le virtù per lanciarsi sull'autostrada del sole, e Tenco invece ne mina le certezze e la crepa all'interno della solida certezza tognazzesca in questo caso. Margherita, sono io. L'ho presa, sai? Sì. Sì, in questo momento. No, Avorio non c'era. L'ho presa grigio alba. No, la targa. Ce l'ho qui davanti a me. Sì, ma forse è meglio, sai? Eh sì, perché tiene di più lo sporco. Ho firmato cambiali per 25 minuti. C'ho ancora il braccio che mi fa male. Ma certo che ce la facciamo, perché non ce la dovremmo fare? Abbiamo sempre pagato tutto. Ma dai, Margherita, perché ci dovremmo pentire, scusa? Non esageriamo, la macchina ormai non è mica più un lusso, è una necessità per tutti. No, no, no, i bambini non li mandare a letto. Venite tutti alla finestra, così quando arrivo suono e la vedete. Cosa? Eh sì, la Mercedes. Via Marcellino che è la Mercedes. No, non gli dire niente, sono quello lì a scuola, poi ripete tutto. Va bene, sarò lì fra un'oretta. Sì, aspettatemi, Mi raccomando. Ciao. Io sottolineo alcune mie intuizioni, poi tu, Sansonna, introduci questa scena di Tognazzi che acquista l'auto nuova. Si acquista l'auto comprando cambiali. È un evento che coinvolge tutta la famiglia. Oggi si compra l'automobile, voi, i figli manco se ne accorgono, hai cambiato macchina, sì, vabbè, ma chi se ne importa. L'ho presa grigio alba perché tiene meglio lo sporco, perché l'automobile poi si puliva una mano, alla fontanella, e poi i colori erano sempre tristissimi, verdino bottiglietta, grigio alba, celestino, calza di Monaco, erano sempre di colori terribili. E poi arriva sotto casa, suona e i ragazzi affacciano, come... Allora era facilissimo trovare il parcheggio sotto casa, oggi sotto casa c'è già la quarta fila, dove la metti la macchina? Di cosa parliamo invece? Questo è Vernissage, un episodio dei mostri, e qui c'è tutta la ferocia di Dino Risi, perché oltre a questo triste quadretto familiare che delinea poi grigio alba, l'alba è l'ora in cui ci si sveglia per andare a lavorare, quindi è tutto sottolineato ferocemente. Un'alba plumbea e già inquinata, in una città assatanata dallo smog, perché l'alba di solito tinge dalle dita rosate, come dice appunto Mero, ma Prodotactylos. Sì, ma infatti niente. Ma la rasoiata finale poi arriva, ma non ce l'abbiamo nella clip, ma la diciamo noi, è che questa macchina gli serve per abbassare la tariffa prima di andare da dei bambini a casa con la prostituta, perché prende 5.000 in macchina e 10.000 a casa, quindi la macchina in realtà, la vera spinta motore appunto per prendere la macchina è proprio quella, per abbassare la tariffa sostanzialmente, quindi il doppio quadro familiare descritto con la solita consueta. In realtà un padre puttaniere prende l'automobile per consumare rapporti mercenari nell'unica maniera contemporanea in quei tempi, caricarle per strada e andare velocemente in macchina. Sì, con le decalcomanie, papà non correre, pensa a noi, con le icone sacre che subito tappezza la macchina appena la prende dal concessionario, quindi in pochi minuti riesce a tratteggiare un quadretto di interni in cui molto il sedile preciso. Ribaltabile era il particolare imprescindibile. Un'automobile, se la compravi con il ribaltabile, già sapevi che avrebbe avuto un uso clandestino e malandrino. La mia macchina doveva andare in giù, quello lì, porcaccia miseria, bella tala, adesso li faccio io qui. Ma che sangue qua. Permesso, per favore, anche la ciabatta qua, tietela, la tua ciabatta, la mancia, la miseria. Nessuno dice niente a sto signore. Qui è un epilogo tragico che chiudiamo con questo. Tognazzi è poliedrico in quegli anni, fa appunto il possessore di Maserati, di Fiat 600, qui è di nuovo un imprenditore, un ricco che ha una grossa macchina, su cui Mastroianni, che un altro imprenditore che cercava il punto di rottura del palloncino, alla fine lo trova e si suicida disperato e si butta sulla macchina. La macchina che viene lesionata è la macchina di Tognazzi, quindi c'è la disperazione per l'oggetto che viene... Si suicida, muore. Ma sfracella sulla macchina. Ma Tognazzi va oltre, non gli importa nulla, perché la macchina è quello che conta, no? Appunto c'è il dolore fisico, tattile per la propria protesi, appunto, alla Cronenberg. Quindi era più importante per lui la macchina lesionata piuttosto che il collega sfracellato sopra. Grazie, abbiamo finito. Giuseppe Sansonna, alla prossima.